Programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Finalmente rieccoci qua, buongiorno a tutti gli amici e le amiche radioascoltatori e radioascoltatrici. Filippo Glorioso rientra nella palinsesta del CRM dopo una breve assenza per motivi vari. Tempo caldissimo, insomma le campagne non ne possono più, hanno bisogno di acqua, mentre il nord Italia è tempestato di alluvioni, di frane, insomma con qualche morto. Questo ci spiace, speriamo che questo non accada da noi, ma nel senso che piova però, perché veramente le campagne, gli animali, i pastori insomma sono disperati. Non c'è nemmeno verdura, non si trova più nulla, e anche gli alberi degli ulivi, in questo momento c'è la raccolta in atto, insomma la resa è buona e la qualità anche, però gli alberi stanno soffrendo maledettamente la siccità. Fatta questa prima premessa, bisogna intanto fare due saluti importanti. Il primo, desideravo salutare l'amica Elena del Call Center di Napoli, con la quale ieri sera abbiamo fatto una bella discussione. Ciao Elena, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro a te e tutti i tuoi colleghi. E poi bisogna salutare i ragazzi di Esperte della ditta Cascino di Lascari. Quindi ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi. Speriamo che la trasmissione sia di vostro gradimento. Oggi due ospiti importanti in trasmissione. Uno è un collega giornalista che scrive per Repubblica. E quindi con lui parleremo di un porcellum, ecco, chiamiamolo così per non definirlo con altri aggettivi, di quello che è successo nel nostro Parlamento. È stata approvata una legge che punisce severamente con un anno di reclusione qualora qualche collega giornalista dovesse diffamare qualcuno. Mi pare che in uno stato di diritto dove tutto deve essere salvaguardato, ma anche chi dice delle cose deve pagare giustamente, ma in questo caso dovrebbe essere una pena pecuniaria e non una pena penale, scusate l'inghippo di parole. Di questo e di tanto altro parleremo con il dottore Ivan Moccero, che è corrispondente delle Madonie di Gangi per quanto attiene la Repubblica, scrive su questo giornale straordinario in Sicilia, e parleremo anche di tutto quello che stamattina il giornale, ma anche dei giornali ieri sera, avevano dato come informazioni: scontri fra poliziotti e studenti, guerriglia a Roma, non soltanto Milano, Torino, ma anche in mezza Europa, senza esclusione di colpi, tra cui anche Londra, molto più pacifica comunque la protesta, e la Germania. I lavoratori tedeschi sono scesi in piazza per protestare e affiancare, ad essere insomma in sintonia con il resto degli gli euro operai. Cos'altro aggiungere? Una nota positiva, anche se la sconfitta 2-1 contro la nostra cugina di Oltralpe, i francesi, 2-1, ma la squadra di Prandelli insomma sul campo si è vista. Sono tantissimi giovani, gli manca anche un po' di esperienza, però Balotelli e Sharawi, insomma, e tantissimi altri giocatori della rosa di Prandelli stanno rendendo bene sul campo. Bisogna mettere a punto un po' la macchina, insomma un po' la testata, vedere un po' le guarnizioni, ma per il resto insomma ci siamo. Poi, oltre al dottor andiamo ancora avanti con il giornale. Parleremo di sanità partecipate, nuove assunzioni, c'è una nota lieta da questo punto di vista. Poi, ancora andando avanti con la politica, Crocetta in giunta, nessun deputato, i grillini tutti rinunciano ai rimborsi elettorali. Insomma, forse siamo sulla strada giusta con la politica. Il Presidente della Regione ha comunicato la sua posizione ai vertici nazionale e siciliana del PD e dell'UDC. Poi leggeremo nel dettaglio, se il tempo ce lo consentirà, insomma, di cosa stiamo parlando. Per quanto attiene invece la politica del centrodestra, Alfano, anticipiamo le politiche a febbraio. DDL Sallusti, Consiglio Europeo, passo grave. Questo dobbiamo leggere perché è importante. Stavamo parlando sicuramente di quello che il nostro Parlamento ha fatto passare come legge, cioè l'anno di reclusione per la diffamazione da parte dei giornalisti, colleghi giornalisti. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Neil Muzniek, sta eseguendo con grande preoccupazione l'iter legislativo del DDL Sallusti, decreto legge, quindi, e ritiene che mantenere il carcere per i giornalisti sarebbe un grave passo indietro per l'Italia. E non solo, dice lo stesso Muzniek, ha ricordato che la speranza era che la nuova legge depenalizzasse la diffamazione, portando così l'Italia in linea con gli standard del Consiglio d'Europa. E come sempre l'Italia si distingue in tutto questo. Io direi di fermarmi un attimo prima di dare la linea alla regia, di salutare uno dei tanti sponsor che ci onora di far parte di questo programma. Vi ricordo Carta e Penna va in onda ogni giovedì da mezzogiorno alle 13:15 circa, con replica domenica alle 9:30. PM Ceramiche SRL, con unico dunque contrata Fazzotta Ianni Greco, è una contrada particolare a San Cataldo e anche a Campo Felice di Roccella. Allora, PM Ceramica, pensate, le offerte che vi fa sono straordinarie: bagno completo di rivestimento, sanitari, rubinetteria, box doccia o vasca, oppure i pavimenti, dunque a partire da soli 7 euro per metro quadrato. Poi tutto per l'edilizia, quindi troverete il cemento, i blocchetti, insomma i mattoni, tutto quello che vi serve. Vi do il numero 393 928 8087, oppure il fisso 0921 93 5551, e chiamate il signor Pietro, che è il titolare, e sicuramente vi metterà nelle condizioni per la vostra casa di acquistare il meglio di quello che PM Ceramiche SRL vi può offrire. Detto questo, do l'energia per una breve pausa musicale. A rientro il primo ospite, il dottor Moccero, col quale parleremo appunto di questa leggiaccia che è passata, insomma, dal nostro Parlamento, che dissente ed è distante un po' ancora dalla civilissima Europa. Questa è una legge che sicuramente farà molto discutere, e mi auguro che, insomma, venga al più presto abrogata. Linea alla regia. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O malé sin palá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malé, sin falar, oh, matelano de samba. E allora rieccoci ancora in studio. Dunque c'è una notizia che riguarda il comune di Cefalù. Il sindaco davanti alla Corte dei Conti, fiato sospeso per le casse di Cefalù. Ci auguriamo che la prossima settimana, la prossima puntata, possiamo avere il sindaco in trasmissione, quantomeno via telefono, per capire un attimo Cefalù come sta cercando di risolvere questo enigma che è straordinario e che non consentirebbe ulteriore sviluppo dal punto di vista economico di questo paese madonita, che poi è la locomotiva che traina tutto il resto per quanto attiene l'economia del resto dell'entroterra delle Madonie medesime. Poi, insomma, leggendo quella agguato nella piazza di Casteldaccia, gambizzato il titolare di un bar, e qui si comincia a rivivere, insomma, momenti di terrore. Ma la cosa più grave è nelle città: Palermo, notte di terrore, coppie di anziani aggredite in casa in via Villa Bianca. I banditi hanno staccato la luce nell'appartamento. Il proprietario ha aperto e loro hanno fatto, cioè il proprietario è sceso giù per capire cosa fosse successo nel proprio contatore, se si è staccato l'automatico. Quando ha aperto il portone per capire cosa fosse successo, è stato aggredito, portato in casa. Insomma, è successo di tutto e di più. Parlavamo prima delle proteste. È già in onda il dottor Morcero. Ecco, vi avevo annunciato la presenza telefonica del collega che scrive per Repubblica, è corrispondente del capo ufficio stampa del comune di Gangi, ma scrive anche per altre questioni sul quotidiano La Repubblica di Palermo. Ivan, buongiorno. Pronto? Ivan, mi senti? Non c'è nessuno in linea. Mi passate la telefonata, per piacere? Allora, stacchiamo un attimo, è stato un falso allarme. Allora, appena si ripristina la linea ci risentiamo. Dicevo, stavamo parlando degli scontri che sono stati furibondi soprattutto tra Torino, Milano e anche Roma ieri. Palermo è stata sequestrata, per modo di dire, ma è stata sequestrata la stazione centrale. Ci sono stati momenti di tensione e questo è per quanto attiene, insomma, tutto quello che sta succedendo con le tasse che il governo giustamente adesso non spetta a me. Insomma, io non faccio il burocrate e non sono nemmeno un politico, ma sicuramente da cittadino credo che la pressione fiscale in Italia sia veramente ai tetti massimi. La gente non ce la fa più. Peraltro ieri chi come me scende a Palermo per motivi di lavoro, per disbrigo pratiche eccetera, si rende conto che già imboccando l'entrata di Palermo, quindi verso via Roma, il traffico che c'era un tempo adesso non c'è più. Insomma, molte le macchine che mancano sulle strade, per cui da un lato è positivo perché c'è meno inquinamento, dall'altro c'è meno rumorosità, quindi la fonometria è a posto. Però purtroppo da lì si capisce, e poi tantissime sarcine scabbassate, da lì si capisce veramente la gravissima situazione economica che vige in tutta Italia, specialmente per quanto attiene il nostro sud, e la Sicilia in particolare. E da qui, insomma, si sono scatenate proteste veementi. Torino, le banche sono state prese d'assalto, la polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni, con alcune cariche, gli studenti in sciopero, scontri e feriti. Poi addirittura c'è una notizia positiva da questo punto di vista: tornano le ruspe nella Valle dei Templi, 18 case demolite dai proprietari. Sapete che, insomma, nelle zone come le Valle dei Templi di Agrigento, ad altissimo grado di cultura per quello che ha rappresentato Agrigento, Agragas, chiamata così dalla necropoli greca, è un sito particolare, un sito straordinario di archeologico di vecchissima data, quindi ai tempi dei greci addirittura, che, insomma, deve essere essere conservato in un certo modo se vogliamo fare un turismo ottimo, e bisogna conservare quei posti, insomma, nel migliore dei modi. L'augurio che ci facciamo è che non ci scappino i morti, che la gente esasperata dal poco poter vivere non si scateni ancora ulteriormente, non soltanto contro le banche ma soprattutto anche contro le forze dell'ordine, perché sarebbe una guerra tra poveri. Dovremmo essere in linea, allora vediamo se non è ancora in linea. Non è ancora in linea, va bene, avevo in cuffia, mi sembrava di essere in linea. Allora ancora stiamo aspettando che si ripristini il collegamento telefonico con il dottor Ivan Moccia. Vi ricordo che è corrispondente da Gangi ma scrive anche per altre questioni sul quotidiano La Repubblica di Palermo ed è capo ufficio stampa del comune di Gangi. Gangi che sta uscendo, devo dire, alla grande sotto il profilo culturale, fa delle ottime manifestazioni nel periodo estivo ma anche d'inverno, insomma, nonostante sia un comune allocato nell'entroterra madonita, sta dando buoni risultati. L'amministrazione insomma è la seconda sua elezione. Il sindaco Ferrarello vuol dire che nella prima ha già ben operato e quindi è stato riconfermato dai propri cittadini. Un altro argomento che dobbiamo toccare è fare attenzione per esempio ai cani che portiamo in casa. Avete sicuramente sentito nei mass media regionali, ha dato notizia anche mi pare il TG4 l'altra sera, un ragazzino è stato sbranato o è stato quantomeno detupato nel viso, in molte parti del corpo, dal pitbull che il papà aveva portato in casa, cucciolo, e poi insomma succedono di questi disastri. Quindi fate attenzione, gli animali sono istintivi e per cui sono facilmente, non è facile controllarli. Pronto? Sì, pronto. Ah, Ivan, finalmente grazie alla regia che sì, insomma è riuscita a ripristinare il collegamento. Volevo ringraziare Giuseppe Bentivegna, che è il fonico che oggi mi assiste alla parte tecnica. Lo ringrazio, è stato molto squisito e puntualissimo, insomma è riuscito a metterci in contatto. Allora, Ivan, buongiorno a te, intanto come stai? Bene, grazie, buongiorno a te Filippo e a tutti i radioascoltatori. Allora, Ivan, tu scrivi, sei una penna, scrivi per Repubblica, sei un collega della stampa, della carta stampata, e sei capo ufficio stampa del comune di Gangi. Prima di addentrarci sulle tematiche insomma regionali e nazionali, una domanda da collega mi consentirai di fartela. Certo. Qual è il tuo punto di vista su questa leggiaccia? Io la chiamo così per non apostrofarla con altri epiteti, perché sennò insomma in diretta radiofonica non sarebbe neanche corretto farlo, ma sinceramente mi ha messo uno stato di allerta. Peraltro ho letto un articolo stamattina del commissario europeo, il quale rimproverava l'Italia di essere distante migliaia di chilometri, per non dire anni luce, da quella che è la vera libertà di stampa che vige in Europa. Tu cosa ne pensi di questa leggiaccia che è stata posta in essere da parte del Parlamento italiano? Ma sicuramente è una pagina nera per la democrazia. Quindi è un passo indietro che fa l'Italia. Noi, se andiamo un po' ad analizzare anche la classifica per quanto riguarda la libertà di stampa stilata a livello mondiale nel 2012, ci vede in 70ª posizione, quindi in una zona dove siamo considerati un paese parzialmente libero. Ecco, manca poco per raggiungere altre nazioni, altri paesi come la Russia, il Sudan, la Siria, dove effettivamente la stampa è controllata. La libertà di stampa, ecco. Tu come te lo sei spiegato? Come te lo sei spiegato che il Parlamento approvi una legge così in controtendenza rispetto all'Europa e al resto del mondo? Ma secondo me è una vendetta politica, bisogna anche considerare... Non si capiva! Anche perché bisogna considerare sostanzialmente quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Ecco, la stampa, ecco, io e altri colleghi abbiamo sempre messo in croce, tra virgolette, i politici di turno che hanno approfittato del loro incarico istituzionale per magari, ecco, come diciamo noi qua in Sicilia, farsi i fatti propri o quelli di famiglia, e quindi ecco assistiamo anche a una sorta di nepotismo politico che quindi è una spirale vorticosa che si autoalimenta, e nello stesso tempo ecco chi è che deve essere preso di mira se non il giornalista che denuncia questi fatti, questi avvenimenti, ecco, e quindi ecco l'unica soluzione era quella. Direttamente. A noi serve questo, far capire alla gente come vanno le cose. Ma noi dobbiamo, ecco, io dico una frase che a me colpisce tanto, ecco. Vedono molto spesso i politici, o i cattivi politici, dobbiamo anche dire, non bisogna generalizzare, bravo. I giornalisti vengono visti come una minaccia alla loro libertà, e però non si ricordano che in tempi dove c'era la vera mancanza di libertà e soprattutto di espressione, era quella la vera minaccia, non siamo certamente noi che dall'altro lato cerchiamo semplicemente di evidenziare determinati eventi che possano colpire anche l'opinione pubblica, ma non è un modo dubbio. Anche per correggere sostanzialmente l'operato, e quindi noi siamo una sorta di sentinella della politica. Ma non soltanto della politica, ma anche del costume, insomma, della società. Certo. No? Ci mancherebbe altro, noi d'altra parte viviamo un momento di crisi, un momento molto difficile e sinceramente molto spesso anche noi, dico io per quanto mi riguarda la mia professione, mi accorgo spesso che la gente ci guarda in modo differente, c'è chi nutre una speranza nei confronti del giornalista di turno, perché magari possa servire a denunciare fatti e misfatti che magari il cittadino indifeso non riesce magari a ottenere dei risultati attraverso i normali canali istituzionali. Quindi veniamo visti come una lobby, una sorta di gruppo di pressione nei confronti sia della politica ma anche delle istituzioni. Dobbiamo considerare che i mezzi di comunicazione sono sempre stati il primo areopago del tempo moderno, e quindi mi voglio anche riallacciare storicamente a determinati studi dove praticamente durante il periodo greco, ecco, anche lì c'era una libertà di stampa ed era sicuramente superiore a quella che oggi noi viviamo ai nostri tempi. È una sorta di pressione che purtroppo io stesso come giornalista spesso sento sulle mie spalle. Ecco. Senti Ivan, io ti volevo fare una domanda. Sicuramente tu avrai letto tantissimo, perché insomma, come tutti i giornalisti, bisogna che ci addentriamo in diverse articolazioni, perché se no non riusciamo a discorrere di nulla. E quindi nella fattispecie l'altra sera sai sviscerando un po' vari libri, testi eccetera, ho incontrato una bellissima lettera che un certo signor Pericle aveva scritto agli ateniesi sul tema la democrazia. Sì. Ok, io credo che tu sia d'accordo sul fatto che questa lettera dovrebbero leggersela e impararla a memoria tutti i deputati, i senatori e i parlamentari che vanno a parlamentare appunto nel cosiddetto Parlamento. Perché lì c'è l'ABC della democrazia, a parte Sofocle con il discorso della Repubblica, no? Ma proprio la lettera agli ateniesi, la dice lunga su cosa loro dovrebbero fare per portare avanti la res pubblica. Non ci sarebbe bisogno di giornalisti lì con la baionetta innestata e il colpo in canna a dire cosa è sbagliato e cosa è giusto, o a denunciare di continuo, perché questo poi è il nostro mestiere. Sì, sì, sì, ma infatti basta ricordare questo famoso discorso pronunciato intorno al 400 avanti Cristo, il 423 avanti Cristo per l'esattezza, vedi un po' quanti secoli, 423 avanti Cristo, quanti secoli sono passati, faglielo capire. Ecco, è questo il problema, è questo, bisognerebbe magari, ecco, rileggerla, ma ecco, possiamo diventare promotori anche di un'iniziativa, se vogliamo la inviamo noi stessi a tutti i parlamentari, ecco, pubblichiamola, la invitiamo a leggerla e diciamo sempre che alcuni parlamentari suonare il pianoforte lì di tastiere per votare per conto degli altri lo sanno fare, quindi la musica gli spartiti li sanno, ma ho seri dubbi che sappiano chi è Pericle, questo bisognerebbe insomma capire, perché se no facciamo una lezione. Senti, cambiamo su questo, in effetti hai tanta ragione caro Filippo, purtroppo spesso durante l'esercizio della mia professione, il mio mestiere, lo voglio chiamare così perché in effetti non è una professione ma un mestiere, perché spesso devi ascoltare la gente, devi cercare un pochino di immedesimarsi nei problemi della gente. Sai, quando la gente non ha più fiducia nella politica, noi vediamo tutto quello che è accaduto ultimamente nelle ultime elezioni regionali, ricordiamoci che il 60% dei siciliani non è andato a votare, questo è un sintomo di mancanza di fiducia, di voglia, di essere partecipi della vita politica siciliana, ma questo per disaffezione causata possibilmente da, non possibilmente, quasi sicuramente da una classe dirigente che non si è dimostrata all'altezza in questi anni. Nella forma più assoluta. Ma per chiudere su questo argomento, poi apriamo su un altro piccolo argomento che riguarda i giornalisti veri e propri. Poi bisogna anche dire che anche nei giornalisti c'è lo sciacallaggio, c'è chi scrive per lo scoop per diventare famoso, come si scrive libri mettendo anche del fango per diventare famoso, e quindi fa un pessimo servizio sia al giornale per il quale scrive sia alla categoria dei giornalisti. Questo bisogna dirlo ad onor del vero e di per coerenza, insomma, per deontologia professionale, insomma, bisogna dire che anche tra i nostri colleghi c'è gente più grande di noi, grossi editorialisti eccetera, che a volte pur di fare lo scoop, pur di vincere qualcosa, insomma, si fanno in 48 e scrivono anche delle grosse bagianate, e lì la punizione ci starebbe, ma non l'anno di carcere, perché mi pare un pochino esagerato, insomma. No, infatti la pena pecuniaria va bene, io dico è anche uno spauracchio, perché il carcere in effetti viene vista questa legge, questa, come tu l'hai chiamata, questa leggiaccia. Legge, ecco. Leggiaccia, la chiamiamo leggiaccia. Leggiaccia, ecco, sì, sostanzialmente sì. Mette il bavaglio alla stampa, perché è uno spauracchio per chiunque deve andare a scrivere un articolo, specialmente poi dobbiamo anche ricordarci una cosa, che chi denuncia o querela il giornalista è chi sostanzialmente ha anche le commesso qualche reato, ma nello stesso tempo anche le possibilità economiche per potersi difendere. Dico, questo non significa nulla, attenzione, però quello che voglio far capire, ma è il principio che conta, Ivan, cioè se noi siamo qui per il giornalista, allora cosa deve fare? Raccontare quello che è la cronaca quotidiana. Certo. Mi sono spiegato. Allora, se questo ci viene tolto, cosa raccontiamo alla gente? Fave? Sì, ma infatti, non lo so io. Non siamo più liberi di poter scrivere tranquillamente. Io, ecco, ti posso anche parlare della mia esperienza personale. Cioè, molte volte, generalmente in 20 anni faccio questo maledetto mestiere, come lo voglio chiamare io, ho preso anch'io qualche citazione in giudizio. Non ti sei fatto mancare nulla. Qualche risarcimento danni mi è stato anche richiesto. Però fondamentalmente su dei fatti dove io erano fatti sostanziali, cioè nel senso che mi ero procurato dei documenti dove erano inattaccabili, cioè nel senso una sentenza per esempio di un tribunale oppure un'ordinanza di custodia cautelare. È evidente che devi avere la documentazione idonea, se no sì, non puoi andare a sparare a zero sulla gente. Poi alla fine, ecco, come si dice, noi abbiamo sempre le pezze d'appoggio. Oggi è difficile che un giornalista che si occupa di cronaca affronta un argomento senza avere queste cosiddette... Sarebbe un kamikaze. Sì, sarebbe un kamikaze. Sì. Senti Ivan, il tempo scorre velocemente, ho un altro ospite e tu sai benissimo di chi sto parlando. E allora, prima di salutarti, volevo semplicemente chiederti un'altra informazione. Qual è il tuo pensiero circa la cancellazione di questo albo dei giornalisti oppure dei farmacisti e via discorrendo di questo passo? Cioè, secondo te ha valenza avere un albo scritto all'albo dei giornalisti, scritto all'albo dei farmacisti? A cosa serve questo albo? Allora, fondamentalmente dobbiamo anche considerare una cosa importante: bisogna regolamentare qualsiasi tipo di professione. È pur vero che oggi si cerca a liberalizzare tutto quanto, però per determinate, ecco, non posso io liberare, ecco, non avere un ordine di controllo, per quanto riguarda, dici? I giornalisti, perché ecco, parlavamo proprio di questo, della diffamazione a mezzo stampa. Ecco, tu vai a manipolare o vai ad utilizzare le notizie, ma il cittadino che legge deve avere un minimo di garanzie, che quella persona sia professionalmente preparato per svolgerla. Ho capito. E la stessa cosa, io non mi affiderei mai a un medico che non è iscritto all'albo, tanto vale che io mi affido. Abbiamo assistito anche a queste cose, insomma, così, purtroppo, dentisti, sono, chirurghi, avvocati che si sono sostituiti senza nessun titolo, insomma, a fare quella professione. Questo invece è fondamentale, avere un titolo, perché presuppone che tu abbia una formazione professionale che ti possa rendere idoneo a svolgere quella professione. Però una riforma occorre immancabilmente per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti. Snellire un po', insomma, la burocrazia. Sì, bisogna sostanzialmente, ecco, non aprire le maglie, nel senso, negli ultimi anni è successa una cosa che secondo me è diventata una prassi, cioè nel senso che venivano formati e vengono formati all'interno delle vari istituti scolastici o universitari i giornalisti che poi impossibilmente non hanno mai visto una redazione, non hanno mai lavorato. Come diceva un mio vecchio direttore, lo dico in siciliano, sì, a Gardina, Cagiria torna sempre cagozzachina, che sì, significa? Ed era rivolta principalmente a noi giornalisti. Certo, dovete stare, certo, sul campo, certo, dovete, certo, andare nei quartieri, dovete andare, dovete sentire la gente, quindi dovete raccogliere le notizie, tornare in redazione e poi scrivere. Esatto. Oggi invece noi ci accorgiamo che c'è tanto che gira online, e quindi la notizia viene fatta anche semplicemente dal cittadino, molto spesso dando anche delle informazioni errate che poi possono portare a tutta una serie di conseguenze anche a livello di immagine. Io ti lascio con una chicca: se tu hai visto ieri i telegiornali o hai visto sui giornali, è stata pubblicata una foto, sì, di un ragazzo sanguinante, sì, e veniva ricondotta una delle tante manifestazioni che sono state ieri. Sì, i tumulti, Roma, che sono stati a Milano, Torino. Quella è una foto che invece è stata scattata in Spagna, quello è un ragazzo spagnolo. Ecco, in questo caso si è fatto un cattivo servizio, un cattivo uso del mezzo stampa. Ecco, questo. Ivan, io ti saluto e ti ringrazio, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Volevo capire un attimo, visto che qui non abbiamo grandi direttori, a parte di quel Pepe, il tuo direttore di Repubblica, ma è a Roma e quindi noi non è possibile raggiungerlo almeno in questo momento, però volevo capire un attimo cosa tu ne pensassi. Sei un valido giornalista, scrivi per Repubblica, capo ufficio stampa di un comune di una certa valenza, Gangi, non è l'ultimo comune d'Italia. E quindi voglio dire, capire un attimo un giovane come te che scrive su un giornale, su un quotidiano, le impressioni che potesse avere sia sulla legge che è stata fatta sui giornalisti, sia il discorso dell'albo. Volevo capire un attimo il tuo punto di vista, visto la stima che ho nei tuoi confronti come professionista e come uomo. Allora Ivan, io ti ringrazio, ti lascio il tuo lavoro, so che sei oberatissimo e spero di averti preso in trasmissione per un'intera puntata, così parleremo del più e del meno, più del meno che del più. E poi chissà, magari facciamo una rimpatriata e vediamo di farci una cena dove metteremo poi insieme delle sinergie per un'eventuale altra puntata, non si sa mai, d'accordo? Va bene, ringrazio te Filippo, ringrazio CRM e tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti. Grazie a te Ivan, buon lavoro. Grazie. Era Ivan Moccero della Repubblica. E adesso, prima di dare linea alla regia, desideravo invece salutare Italfinestre. Di cosa sto parlando? Di un'azienda favolosa, la trovate in via Roma, Cerda, in provincia di Palermo. Allora il telefono 091 89 92 757, produzione di porte d'interni su richiesta e su misura, finestre e poi addirittura le persiane in PVC, in alluminio, le zanzariere per l'estate che sono importanti, produzione incontrata Baita. Allora vi ricordo Italfinestre, lo trovate in via Roma come showroom, invece la lavorazione viene fatta in contrada. C'era anche darvi l'info, @italfinestre.com oppure www.italfinestra.com. Il numero di telefono l'ha dato, 091 89 92 757, o 349 149 8808. Ricordate questo nome che è straordinario, Italfinestra, e non è soltanto finestra. Allora dobbiamo andare ancora un attimo avanti con un altro sponsor, la parafarmacia della dottoressa Guardi. Perché vi parlo di questa parafarmacia? Non c'è bisogno di ricetta medica, trovate tutto quello che trovate in farmacia, dal dentifricio ai pannolini, insomma, e anche ai sanitari che servono, tipo la stampella, il girello, quello che serve per in caso di infortuni, ma ci sono delle marche particolari che devo sottolineare, per esempio la Aveno, prodotti per il corpo, pelli sensibili, oppure gli integratori della vitamina Mix, Vitamix, Junior Pappa Reale, esclusivista Rock, cosmesi e viso corpo, antirughe, antietà, viso donna. Poi ci sono i prodotti per l'infanzia, i presidi sanitari che avevo anche detto, anche a noleggio se volete, sedie e rotelle, stampelle, girelli, eccetera. Vi raccomando, parafarmacia dottoressa Guardi a Castelbuono in via Dante Alighieri 116, il telefono per un'eventuale informazioni 0921 67 22 54. Linea energia, musica e poi il secondo ospite della trasmissione. CRM Happy Radio. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Trouble, trouble, make it, yeah, that charm me.

Siamo in onda? Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, rieccoci qui, vi ricordo che state ascoltando Carta e Penna su CRM Radio, vi devo dare anche il sito www.crmpiradio.it per chi volesse seguirci anche col proprio computer, può farlo cliccando, va on air, insomma ci vede anche, per cui insomma Giuseppe, vero, siamo anche visti, no, vedono me, te non ti vedono perché sei dall'altra parte del vetro. Allora, dicevamo, abbiamo parlato di giornalismo, abbiamo parlato di l'albo dei giornalisti e adesso dobbiamo cambiare pagina, abbiamo il secondo ospite della puntata, stiamo parlando del dunque di vediamo un attimo, allora dovrebbe essere il dottor Danna? Sì, è il dottor Danna, buongiorno, buongiorno, lui è il vicepresidente dei giovani amministratori, dico bene? No, faccio parte del direttivo dei giovani amministratori, sono il cassiere dei giovani amministratori. Ah, ecco, allora ci ha portato un po' di soldi in tempi sì. di crisi. Senta, dottor Danna, allora, intanto comincio a fare la prima domanda. Come nasce l'idea di creare questo gruppo, insomma, per poi dare la possibilità ai giovani amministratori, serve a questo, per dare la possibilità ai giovani amministratori di capire come si amministra, qual è stata la leva che ha fatto scattare, la molla che ha fatto scattare questa idea? Allora, la molla è scattata 4 anni fa, quando un gruppo di giovani amministratori abbiamo sentito la necessità di avere un po' di formazione per poter amministrare i nostri comuni. Noi, appena eletti, sì. eravamo lasciati soli. E quindi in una serie di riunioni abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione, all'inizio aperta solo agli amministratori delle Madonie e successivamente aperta, l'anno scorso è stata aperta pure ai giovani del Termitano. Sì. Con gli scopi principali della nostra associazione sono quelli, come dicevo prima, di fare informazione e formazione su tutti i decreti, le leggi, su come amministrare un ente locale. Sì. Inoltre, come associazione, noi scambiamo, facendo delle riunioni periodiche, riusciamo a scambiare le buone prassi che in ognuno dei nostri comuni vengono effettuate. Senta, quali sono le principali difficoltà di un neoeletto, di un neofita che entra per la prima volta nella sala dei bottoni di un comune? Posso parlare delle mie esperienze personali, certo. Si trova praticamente spaesato perché non sa dove mettere le mani, non sa quali sono le cose che un consigliere può fare, le cose che un consigliere non può fare, quali sono i compiti della giunta municipale, quali sono i compiti dei funzionari, perché ci sono delle diversità. Sì. E quindi si cerca di arrampicare in questo in questo complicato mondo degli enti locali. Le posso chiedere che età ha lei? Io ho 33 anni, però faccio politica da 10 anni. Insomma, da poco. 23 anni. Ah, ecco, quindi giovanissimo, entrato in politica, sì. eccetera, eccetera. Senta, quali sono oggi, a parte il patto di stabilità che i comuni hanno, gli pesa sul groppone, quindi non si possono fare ulteriori lavori dentro un comune? Per esempio, alzare anche un muretto potrebbe sforare il patto di stabilità, eccetera. Quindi ci sono delle oggettive difficoltà operative da parte di chi amministra, no? Praticamente il problema è che con questa crisi i ceti più poveri sono sempre più poveri e quindi noi ci scontriamo giornalmente con queste persone che vengono al comune a chiedere sempre, hanno bisogno, non hanno più soldi per poter vivere, non hanno più, hanno molte esigenze, molte necessità e quindi la maggior parte dei fondi che il comune ha è per dirigerli sul sociale. Lei sta parlando nella fattispecie del suo di comune, che è sì. Bonpietro, se non è. No, non è solo il comune, Bonpietro è un pochettino. No, no, dico, a parte, la cosa è generalizzata, è ovvio, in tutta Italia, figuriamoci se poi in un paese come Bonpietro, come Castelbuono, come Pollina, eccetera, non succedono le stesse cose, è una cosa molto estesa, è un discorso oggettivo, non è certamente un discorso allocato esclusivamente in un comune anziché in un altro. Ma la domanda che le pongo è questa, siccome sono comune nell'entroterra, lei mi insegna, perché ci vive, è del tutto evidente, che c'è stato un depauperamento demografico negli ultimi 10 anni, in questi comuni sono rimasti più anziani che non nascituri, che non giovani. Sì. Ecco, un suo personale, come dire, una sua personale idea, quale potrebbe essere un'idea per far ripartire il volano di un'economia di paesi così piccoli allocati in posti distanti dai centri di maggiore interesse come Cefalù, Termini, Palermo? Innanzitutto partecipare ai bandi comunitari. perché sono gli unici che riescono a dare respiro ai comuni, gli unici che permettono ai giovani di creare attività all'interno del nostro comune, perché generalmente i nostri centri si spopolano perché per i giovani non c'è futuro, quindi vanno all'università, ne so, a Palermo, e poi tentano ad andare fuori perché non trovano lavoro nelle nostre zone. Ma lei non pensa che, scusi se la interrompo, lei non pensa che sarebbe opportuno, anziché iscriversi, continuare a iscriversi ancora a centinaia, migliaia, e parcheggiarsi poi nelle università, non sarebbe opportuno che molti di questi giovani, quelli più adatti tecnicamente, facessero qualche vecchio mestiere che non si trova più, come per esempio... Sì, sì. Infatti questo è un altro scopo del nostro, che si è posto alla nostra associazione, perché noi un anno fa abbiamo partecipato a un bando, sì, del Ministero della Gioventù presentando appunto un progetto che si chiama Conoscere per riprodurre sugli antichi mestieri. Perfetto. E praticamente era una rivisitazione di tutti gli antichi mestieri presenti sul territorio, e siamo arrivati secondo a livello nazionale come per questo progetto, e da una settimana fa mi è arrivata la notizia che tra tutti i progetti approvati il nostro è stato portato a compimento, è stato uno dei migliori, dove circa 100 giovani si sono avvicinati al mondo degli antichi mestieri, però ancora non c'è questa mentalità di prendere l'antico mestiere come e riproporlo e farlo, anche se secondo me sarebbe un buon metodo di sostentamento per le famiglie presenti sul nostro territorio. Beh, un altro metodo potrei anche, lei sicuramente come amministratore ci avrà già pensato, ci sono due strade secondo me che ancora non si sono molto, o per meglio dire si sono percorse molto molto di rado, e sarebbe quello dell'accorpamento, cioè dire Bonpietro con Alimena, accorpare i comuni per far fronte alle spese che messi insieme diminuirebbero del 30-40%. E questa è una prima cosa. E seconda cosa, partire con un volano che è stato sempre, come economia regionale, l'agricoltura, che lascia molto a desiderare in questo momento, creare delle cooperative agricole dove è possibile, sì, insomma, produrre, e poi a fare le bit di Milano, andare nelle borse europee a dimostrare cosa noi siamo riusciti a produrre nel tempo. Sì, per quanto riguarda le unioni dei comuni, praticamente le unioni dei comuni sono un pochino sparse ora sul territorio malaitano, anche se non hanno funzionato bene, perché vengono viste come un ente, un ulteriore ente. Carrozzone si chiama. Sì, sovracomunale, quindi tra l'altro alcuni unioni dei comuni non sono arrivati trasferimenti di recente, quindi praticamente sono un groppone, anche se quindi sarebbe molto più opportuno accorpare i servizi tra i vari comuni. A quello mi riferivo, ai servizi. La formazione che terremo questo venerdì e sabato si parlerà appunto delle innovazioni sugli ordinamenti degli enti locali, dove si parlerà appunto della soppressione delle province, il futuro dell'unione dei comuni, l'accorpamento tra i vari servizi. Questo è un argomento del nostro prossimo corso di formazione. Senta, prima di lasciarci e ringraziarla per la sua partecipazione cortese alla mia trasmissione, le desideravo chiederle questo: nei giovani amministratori e ormai una cosa, sono scevri dalla corruzione che negli ultimi anni o negli ultimi decenni hanno colpito gli amministratori nazionali e regionali, cioè tra voi giovani circola la voce che bisognerebbe adesso, ma veramente, mettere mano a quella che è l'onestà intellettuale di ognuno di voi? Sì, infatti sì, noi avremmo intenzione pure di scendere come gruppo, come associazione, di fare un passo più avanti per esprimere il nostro pensiero pure a livello nazionale e provinciale. Bene, dottor Danna, io intanto... Io volevo concludere... Prego, prego, prego, prego. Con una frase di Kennedy che credo ha mosso il nostro interesse verso la politica. È, sì, bello vivere nel proprio paese, ma è ancora più bello aiutare il proprio paese a vivere. Complimenti. Beh, i giovani, quando poi mi dicono che i giovani non hanno idee, non hanno voglia di fare, non vi hanno lasciato fare. Questo è, quindi appropriatevi del vostro spazio, perché io ritengo che i giovani delle nuove generazioni hanno tutte le carte in regola e le idee abbastanza chiare per porre in essere quelle che sono, insomma, le prerogative per uscire fuori da questo tunnel maldetto dove passate generazioni, purtroppo, compresa la mia, ahimè, hanno creato. Dottor Danna, se non ho altro da aggiungere, io non faccio altro che ringraziarla per essere intervenuto. Grazie in trasmissione. Grazie per questa opportunità, la ringrazio pure io. La mia trasmissione e CRM è sempre disponibile ad accogliere idee nuovi amministratori che vogliono porre in essere le loro idee, e quindi ci troverà sempre disponibili ad accogliervi a braccia aperte, dottor Danna, d'accordo? D'accordo. Le auguro buon lavoro a lei e ai suoi colleghi amministratori. Grazie, grazie, arrivederci. Tante cose, buon lavoro. Allora, io direi di chiudere un attimo, mancano pochissimi minuti alla chiusura di questa ennesima puntata di Carta e Penna, che vi ricordo va in onda ogni giovedì su CRM Radio, la frequenza 101.4 per chi volesse ascoltarci via etere, per chi vuole seguirci invece in internet può farlo sul sito www.crmepiradio.it. Siamo anche con Facebook, quindi scrivete i vostri pareri, le vostre impressioni, le vostre perplessità, siamo lieti poi di leggerli chiaramente in trasmissione. Per chi invece volesse partecipare nelle altre trasmissioni del palinsesto di CRM Radio può farlo allo 0921 92 32 92. Prima di congedarci devo parlarvi di una grande ma grandissima azienda, vi devo parlare di Cascino. Tantissimi siciliani conoscono Cascino, con un bellissimo showroom, un capannone che non finisce mai, molto bello, allestito con gusto, arredato con altrettanto gusto, lo trovate a Termini Imerese. Pensate, al 1945 Cascino porta nelle vostre case il meglio di quello che si può trovare per arredare una casa, e per arredare io intendo veramente tutto, agli arredi bagno, passiamo ai divani, passiamo ai lampadari, siamo alle finestre, alle porte, ai camini, ma insomma c'è veramente di tutto e di più. Quindi andate a Termini Imerese, andate a trovare gli capannoni, lo showroom dell'azienda Cascino, che da tantissimi anni ormai veramente arreda le vostre case con gusto e sinceramente senza che vi fa spendere tanto poi per arredare. Ma Cascino è anche il titolare in franchising di Expert, lo trovate all'Ascari, proprio dove ci sono i discount alimentari alle spalle, e io colgo l'occasione per salutare i dipendenti di Expert, perché lì trovate sempre sotto il timbro di Cascino, trovate tutto quello che necessita, dagli elettrodomestici ai televisori, ai telefonini, ma anche per la campagna, per chi ama fare ecco da sé come me, dipingere le imposte, quindi tutti i materiali che vi viene, i motosega, i decespugliatori, quello che vi serve, ecco lì lo trovate a Expert, firmato Cascino all'Ascari, lo trovate a vostra disposizione. Non soltanto lo trovate a disposizione, ma vi fa risparmiare un bel po' di soldi, ci sono degli sconti straordinari su tutto quello che viene esposto, anche i pozzi frigoriferi, per chi vuole conservare delle cose, degli alimenti per lungo tempo, beh insomma è assortitissimo. Vi ricordo, Expert di Cascino lo trovate a Lascari, mentre lo showroom, che sono capannoni straordinariamente belli, lo trovate invece a via Termini Imerese, in via Crisone 14. Vi do i numeri di telefono: 091 81 15 455. Telefonate, fissatevi un appuntamento se volete. Ci sono diverse film prestigiosi che trovate in questi showroom a Termini Imerese, come Sant'Agostino, come Grown, come Teuco, come Garofoli, Sgrigno, Gidea, Trend, Devon, Gazzotti, e c'era poi gli altri, li enucleeremo la prossima puntata. Vi ricordo quindi questo timbro che è straordinario, mettetevelo in testa, è un cognome straordinario, Cascino, dal 1945, qualità senza età, pensate, quindi man mano che passa il tempo Cascino si rinnova sempre, la cultura della qualità in mostra, questo è il motto di questa grandissima azienda, di questo grandissimo marchio Cascino. Expert lo trovate all'Ascari, invece lo showroom vero e proprio lo trovate a Termini Imerese, sempre in provincia di Palermo, naturalmente via Crisone 14. Buoni acquisti con gli sconti che naturalmente la ditta Cascino vi farà, ma con la qualità che la ditta Cascino vi darà. Grazie, io ringrazio sempre il nostro fonico per la parte tecnica Giuseppe Bentivegna, ringrazio i radioascoltatori che ci hanno seguito fino a qui con tanta passione, ma ringrazio i due ospiti che sono intervenuti in trasmissione, il collega Ivan Moccero per quanto attiene la Repubblica, scrive per quel giornale, e poi il dottor Danna per quanto attiene invece i giovani amministratori. Abbiamo capito a cosa serve questa nuova struttura, serve a istruire i nuovi assessori, i nuovi consiglieri che vanno ad insediarsi, non hanno mai fatto politica attiva, a capire come funziona la macchina comunale. Grazie ancora a tutti, l'appuntamento per domenica verrà differita sempre intorno alle 9, invece per la diretta giovedì prossimo stessa lo stesso programma. Da Filippo Glorioso un grosso bacio, un buon weekend a tutti, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione.